Canzone per noi due che non ci sentiamo. Canzone per noi due che non ci sentiamo. Le nostre voci si son sedute troppo lontano. La mia a Milano e la tua in Perù. Canzone per noi che non ci sentiamo più. Canzone per noi due che non ci vediamo. Canzone per noi due che non ci vediamo. I nostri occhi son seduti su due panchine. Una all'isola d'Elba e l'altra città del Vaticano. Canzone per noi due che non ci vediamo. Chilometri d'asfalto e qualche albero africano. I nostri alberi son cresciuti troppo lontano. Il mio in un clima tropicale e il tuo transiberiano. Canzone per noi due a Firenze. Canzone scarpe nuove, io e te insieme non siamo più niente. Le nostre scarpe si sono allacciate troppo distanti. Le tue a Firenze e le mie sulle colline del Chianti. Canzone per noi due, canzone taglia le gole. Canzone per noi due assopiti all'ombra dell'ultimo sole. Il nostro sole è tramontato ormai da tanto. Il tuo sul mare e il mio sul pavimento. Canzone per noi due che non ci tocchiamo. Canzone per noi due che non ci tocchiamo. Le nostre mani si sono posate troppo lontano. Le mie su una chitarra e le tue sui tasti di un piano.